In questo periodo, ormai nell'imminenza del Natale, con chi capita di trovarsi ci si fa auguri, auguri, buone feste, buon Natale. Io vi invito a fare un esperimento, se volete. Provate a chiedere a qualche persona come stai. Vi assicuro, almeno la mia esperienza è questa, che vi rovescia addosso tutti i suoi fastidi. Io ho provato anche a fare un'esperienza simile quando qualcuno mi incontra un po' che non mi vede. Oh, Don Ambrogio, come sta? Io sto bene, grazie, così, sia di salute che di anima. E poi tu gli chiedi, ma tua moglie, tuo marito, i tuoi figli? E poi devi fermarlo perché è una valanga. Quindi questa persona ti ha chiesto come stai, ma era una scusa perché tu chiedessi a lui o a lei come stai tu. Non c'è in giro la pace, amici. Non c'è in giro la gioia, la contentezza, la soddisfazione. Ma che parole sono queste? C'è in giro la paura e adesso questo nuovo virus. Ma il vaccino che hanno appena fatto servirà anche per quello? Oppure, ma qui non ci si salva più. C'è in giro veramente una paura, una tristezza. Poi incontri uno e dice, sono stati lì i ladri a casa mia. Mancava anche questo, no? Siete agitati. Sono stati lì per 5 minuti appesi al balcone e non riuscivano a salire, non riuscivano a scendere, non riuscivano a saltare. C'è in giro tanta tristezza. Per questo io stamattina volevo invitarvi con me a chiedere al Signore in questa messa la gioia. Io ho controllato nella messa di oggi e ho trovato che per ben 8 volte viene nominata la gioia. Oppure addirittura c'è il canto dopo il Vangelo che dice gioisci figlia di Sion, rallegrati con tutto il cuore figlia Gerusalemme, il Signore è in mezzo a te, non vedrai più la sventura. Magari uno ha qualcuno all'ospedale, qualcuno non riesce a venire fuori da una situazione dolorosa, perché poi dopo, oltre alla salute, oltre alla malattia, ci sono anche le incomprensioni in famiglia. Il tuo amore discende dal cielo, appare la bontà di Gesù Salvatore. E uno dice, magari. Gli uomini si rifugiano all'ombra delle tue ali, si inebriano della tua abbondanza, li disseti al torrente della gioia. Sembrerebbe proprio il contrario, amici. Allora, queste cose noi dobbiamo chiederle, perché ci sono certi sentimenti del cuore che tu puoi così comandargli al cuore. Non ti segue. Una è la paura. A me è capitato di incontrare persone che non riuscivano a fare un passo per la paura. Persone che non dormono e tu prova a dire, ma io voglio dormire. Auguri, cerca di farlo. Cerca di essere contento se ce la fai. Il cuore dell'uomo, amici, è così complesso e in questi tempi è così affaticato che abbiamo proprio bisogno di chiedere la gioia. Ma chiediamola al Signore, perché noi da soli non siamo capaci. Allora, se volete unirvi alla mia preghiera, magari adesso lasciamo anche un istante di silenzio. Qui diciamo al Signore: Signore, io non sono capace, coloro che incontro non sono capaci, donaci tu la gioia. Ma la gioia noi riusciremo ad averla se abbiamo la speranza. Se siamo capaci di fissare lo sguardo su Gesù. Ma io starei qui fino a domani a parlarvi di questo, perché ad esempio mi dicono: è morto un prete di 60 anni, l'hanno trovato lì nel suo ufficio, non arrivava più a dir messa, vanno e lo trovano lì. È morto un giovane papà, anche lui di meno di 60 anni, dopo aver sofferto per un tumore, e poi alla fine ha preso anche il Covid. E poi, cari amici, se noi guardiamo solo questo, c'è solamente da dire: ma che vita è? E allora io cerco, e lo vorrei suggerire anche a voi, di pensare al paradiso. L'ultima volta che avete pensato al paradiso, quando è stato? No, ma come fai a pensare al paradiso? E di fronte a un funerale noi guardiamo sempre indietro. Ha sofferto, ha patito, ha avuto una vita faticosa, lascia qui la moglie e due bambini, sempre al passato. Ma è giusto, è giusto. Ma nessuno che guarda avanti. Almeno io dico: Signore, dammi la grazia, e dalla anche a questi miei cristiani, di tener presente le fatiche di oggi, ma anche di pensare. Provate a pensare che la Madonna, quando appare nelle apparizioni su questa terra, i veggenti dicono sempre: è bellissima. Solo che la Madonna, per venire a apparire su questa terra, viene da qualche parte. La Madonna abita in paradiso, via Paradiso numero 1. Ecco, se riusciamo qualche volta a pregare in silenzio, a pregare col cuore, a pregare con gli occhi, a pregare con la parola di Dio, a pregare con la liturgia, questa gioia 8 volte, questo rallegrarsi 8 volte ripetuto nella Santa Messa, ma è un lavoro che dovete fare anche voi. Vi auguro che in questo Natale, sì, assieme alle fatiche, assieme alle tristezze, assieme alle lamentele, fatiche, tristezze, lamentele, scoraggiamenti, ecco che chiediate al Signore: Signore, se tu mi dai un po' di gioia, magari riesco a vivere meglio.